capito, pigliava, tornava a Brindisi, si c'era la Madonna. Ma era per dire due, così l'aveva aperto all'inizio, doveva aspettare che si aprisse, trovava tutti e due, invece non ha premuto di nuovo e si è di nuovo chiuso. E poi il cazzo diceva, le macchinette suonando da lui, no, si è abbinata al comico, ma ti vuoi muovere sì o no, ma a me si disegna, ma attendate che se ne sentinora mai. Quando c'era? Se non riservare così, lascialo stare col telecomando, se per peso, che l'avevo già aperto io il cancello, cosa stai dicendo? Ma tu sei chiuso, io l'ho chiuso, se io l'ho aperto solo, l'ho appoggiato la chiave, come faccio a averlo riaperto io? Con bagno devo E ma dove esci il gotto? Vuoi sempre il gotto? Un vice, un gotto, la canta è nata, e è nato in briaca. Allora c'è una cosa ancora. Sono andato a controllare quella situazione là, sono andati i pesciolini. Sono andato a controllare, no, quella situazione, e sono andati i pesciolini mentre c'ero io. Almeno hai visto come nascono. No, io già lo so come nascono, io li ho visti tante volte nascendo. Ma Natalina è rimasta bocca aperta perché non se l'aspettava, non li aveva visti. Che erano per nascere. Cioè, le ho portate io così, le ho scelte io gravi delle donne, no? Oh. Io le ho preso queste femminucce gravi, di modo che quando le fanno i figli si poppa l'acquario, non c'è bisogno di stare a spendere un bel di soldi, capito? Certo, fatto bene. Dice che non va a mettere non so che cosa in quest'acquario. Cosa deve mettere? Per far nascere le piccoline. Ma sarà parto? Via. Ce l'abbiamo messa, sì, però quelli che sono nati tutti sparpagliati. E non ce la fai a pidere, non ce la facciamo a prendere una femmina che è gravida male. Deve, fra poco deve partorire. Non ce l'abbiamo fatta a pigliarla, no? Svizzera, tutte le parti. Forse anche come c'hai, io dei pesciolini piccoli. Ehi, già se si riesce a prenderli piano piano, ci vuole pazienza, ci vuole. Mi va a tentare il burro Mario che ti calori, ah, ti via di partire invece, È un po' difficile. Ha detto la fine, beh, Natali già, io mi sono Gabriele, ha già messo la pazienza. Io già ripido, ma ripido, oppure rimetti, oppure col barano. È vero, se no, lui ci vuole pazienza, piano piano, deve cercare di pigliarla. Ma è così, no? È cosa che si smita subito. E cos'è che lui non ci aveva la salappata, se no come li ho comprati, l'avrebbero messo direttamente in salappata, avrebbero partorito lì dentro, vabbè comunque, già si nascondono i piccioni piccoli nelle foglie, cose non si fanno mangiare. Penso proprio di sì, che si difendano. E si nascondono, si restano dietro le foglie, sotto, per non vederli, capito? Beh, sono furbi, sono furbacchioni. Ma nemmeno petrodunghi sono, piccoli piccoli. No, una soddisfazione, dopo due giorni che mi sono d'acqua ho già partorito, non te li mangi. Che fanno così, fanno? Perché ti esci io così, se no ho già dei mani avanti che partorivano così in fretta. Se uno lo sa, le sceglie giuste, le sceglie. Beh, io devo scendere già partorito, Antonio. Documentare, se ce ne sarà acquario, si vuole documentare. Non ho mai avuto l'acquario, più di una vaschetta, no. Un acquario non ce l'ho mai avuto. Io sì, io ne ho avuto tre. Mamma tua. Io due a casa di mamma e uno a casa mia. No, non mi sono mai appassionato. Ci vuole la passione, infatti. Se non ha la passione, devi avere passione e denaro, perché con l'acquario c'è una vasta scelta di cose e anche di pesci. Se ti vuoi fare quello marino, guai. Già, non so, già. Non sa fa un bel sole che corrono gli acquari. Marino specialmente, che arte buco gusto. Come posso immaginare? I pesci sono beccari, c'è il pesce pagliaccio, o nemo, pesce pagliaccio, ci sono quelli viola con la coda gialla, quei belli. Ma sono troppo bestiali dei pesci. Non ci sono quelli. Sono tropicali marini. Con lui bisogna che le faccia l'acqua salata, cosa devi fare? C'è il salatore, adesso. Prima si prendeva l'acqua con la tamona, adesso c'è il salatore, ti sale l'acqua da sola, ti aggiungi il sale, boh, sale marino. Lo faccio a lui. Perché prima per avere quello bisognava scendere a la tamona. E ti facevi due o tre bidoni da 20 litri e poi salivi a sasso. Mi ha preso, beh. Chi c'aveva l'acqua da marino? Magari di qua, con il tappo di qua di scarico. Era bene che faceva quello che ha fatto. La gente che... però no, a me non mi piace quando sono quei pesci veloci, tipo piranha. A casa però non ci dovevi venire quando c'era. E quando è che ce li ha preso? Io li ho avuti, ne ho avuto due di piranha. Ma allora ce li avevo, penso, un 3-4 anni fa. Sono pericolosi, insomma. Ah, vabbè, ti piacciono vedere così, ma le mani non ce li mettere. Le mani non bisogna metterceli quando sono quelli così lì. Consumano un branco di piranha, consumano un bue in 15 minuti. Va via. Tutto, Dove andiamo a mangiare? Di là. C'è un mangime speciale a base di gamberetti, questa roba qua. Sono gamberi seccati, mangimi congelati. Mi dà un pezzo di verdina se la mangiano. Non lo so. Fuso un mare. Oh, si tirano. Solo se sono vettibili lì come pesci. Facci la mano verso il timido. Solo quando sono tutti insieme diventano aggressivi. È pericoloso anche per il gatto. Beh, bisogna tutti. C'è parchetto in parchetto, parchetto! Cappa, cappa! Sì, si rimane, bisogna dire che fa del tempo la braccata. Marone, che la gli ha fatto un po' più giù, però. Ma se c'è un braccio, ha più bistichetti, amica. Vabbè, il braccio di questo, capita, gli ha guido, gli ha. Ma la sorte. Pesci di ragno. Ma a me come pesce non piace il pesce tutto il ragno. Non piace ma nulla prima. È feo questo pesce. Non ce l'ha mai avuto l'acquario. Ah, non ce l'abbiamo fatto fare. L'acquario con pesci. Pesci trafficali, belli. Sì, già. Ah, si è dormito. Bello, non mi piace, io non, la verità non mi sono mai interessato. Mi sarebbe piaciuto averlo uno piccolino. Ehi, cappagatta. No, neanche a me non è che mi piacciono. Barroccia. Gianni. Prendi. Non ti piace la ferocia, se li vedi certi dell'amore. Ti ho detto, non ce l'ho mai avuto, non mi è mai interessato, però uno piccolino l'avrei voluto avere di acquario. Perché si è accaduto il Zezze. Tu sei accaduto, io so come ti ha detto. Ma niente di sì già. Dai, fa che riprima. Ah, lo vedi, ti faccio ragione tu. Sotto. La parrocchia. Ciao. Oh, yeah. Vabbè, bisogna farlo pisellino. Sennò guai. Bisogna farlo sì, eccolo qua. ci riuscivo, ma un pochettino ce li provo, perché voglio un pochettino riposare. Dopo, ma vedo tutto, ma ci riuscivo proprio a addormentare. Gappa di rosa, dammi controllo la tua, come è fatta? Oh, sì, a radio buona 5. Ma se sente ancora quel graffio? Si sente nulla in occhio, no? Gappa rosa. Gappa. Oggi sono basso e stazionari, vedo così a tu, vedo che sono basso. Oggi si può attaccare anche Gigetta. Gigetto? Ce l'ho riposare Gigetto. Se lo non ne ho. Sto solo, guarda della parecchia, basta. Andiamo, Roccio. Andiamo, va bene. Dove si va a attaccare adesso quando c'è la preparazione? Ah, quello lì. Beh, quello c'è il problema di dubbio. Allora sì che si può attaccare, per farci sentire meglio. Non ti credi, no. Se ti arriva un corso di loro, già. Ti attende il burlusica. Cava. Sì, ma non stavo entrando tanto in questo periodo, Cosa vuoi? Te l'ho spiegato, questo periodo, no. Devi aspettare a maggio, all'estate. Gattaro c'era. Beh, vuol dire, come se metti in banda L nel 45, giù d'Italia, Gaba. Ma si sente lecca lecca tu? Si sente, lui non si sente. Bravo. Ma non lo senti? Hola. Non è fortissimo. Perché forte mio. Normale. Gatta. Sì, è tu. Già ci sono già. Ci devi dire la sigaretta, vero? No, non stava accendendo proprio niente. Bianco, un attimo, devo andare correndo al GDH piccolo. Se mi aspetti. Sì, già sono qua, vai. Già vedi che c'è il dormito. Là. Parchetto. Ripreso, come qua. Parocchio. E cos'è, qualche coppa esclusiva? Via. Quella scossina, ragazzi. Ehi, vabbè, succede. Sì. Andate, mi ha pesicato la zona. Già lo so. Adesso fa un po', vedo. Ti riesco a riposare un pochino. Va. Ehi, qua ci vuole un po' di riposo, vai. Ci vuole, sì. Guarda, quando vuoi andare dammi conferma, così mi sdraio anch'io 5 minuti. Io non riesco a capire che recensione c'hanno, io ti copio 8. Stamattina una persona ti ha dato 5. Vabbè. Accettiamo tutto a tu, noi accettiamo di tutto. Tanto non è che puoi credere più di tanto alle determinate persone, così che non è che mi interessi più di tanto, Ma volevo capire, è strano, Io ti copio una maniera, anche nell'altro Twitter ho controllato se è 8. Non c'è poco da fare. Cioè, io che c'ho un'antenna inferiore, messa dove è messa, ti copio 8. Uno che va anche nell'altra la cubituria deve copiarti almeno 8-9 e non esagerare. Cava. Vabbè. Non è che mi interessi più di tanto, dai. A me mi interessa più la radio, per scappare. Per dire, cioè, è una cosa strana. Vedi quando è alto. La ciscia. Però quando avanti sul tetto, il minimo ti avrei scoppiato 9, 9, 10. Tu pensa che Gio Maria, Marionaro, arriva 9, 9 a picchi di 5, capito? Tu avendo l'antenna sul tetto, 9, 9, 10, muori muori, Va, 9, 5. Loro sono anche un po' più bassi di me, di palazzo, però hanno l'antenna su, quindi devono ricevere tutta un'altra cosa. Sì. La mattina c'era Bulldozer lì a Sidoli, addirittura gli arrivavo Santiago 9 o 8 per la Pianetto e Radio 5 a bomba. Per arrivare dappertutto, cioè. Cappa, già non credo già, mi sa che anche se me la tolgo la antenna questa la lascio, Però mi passami un pochino, scende, tipo Tava, quelle zone lì. Sì, va bene, ma questo va anche Vulcano che copia bene. Sì, capito. Io so che dovessi comprare la antenna, quella col panzucco lo lascio, lo lascio lì e faccio scendere la profilo, faccio e metto, diciamo, deviatore, e quella lì la lascio la stessa. Se non ti vuoi mettere una mantova, già lo sai cosa ti puoi mettere. Ti ho visto che è abbastanza affidabile come antenna. Vedi tu cosa vuoi fare. La ringo metto a tu. Per un arringo? Positivo. Metterò un arringo perché mi piace anche come antenna, è bella. Non è molto impegnativa, non è? Poi vuoi pure una mantova, ti pone una mantova, che allora è il massimo. Allora, ma via di mezzo, va bene lo stesso. La parrocchia. No, non è voglio questi parrosoli grandi, non mi piace, non affitto a tu. Voglio un attimino bello, che non prenda molto spazio e compagnia bella, e già va bene lo stesso. Non è tanto piccolina, no? 5 metri, sempre meno di 7 metri, 6 metri e più, è quasi 7 metri la mantova, quella là sembra che sia 5 metri qualcosa, però è un po' meno impegnativa. Guarda, l'importante è che riusciamo a parlare con la Spagna. Ma con quella già ci riesci anche con quella lì. Con questa che ho? Allora. Chiamava. Sono due voci, collegato dai nonchi. Ma cosa qua? Allora. No, qua sono contenti, era una bella carica, cacciando, dai. Là sotto è argentata, dai, cosa è? Già, non mi ricordo adesso. È cromata. Alla roccia, sì, è cromata, sì. Va bene. Sì, l'armonica va bene, caspita. Andiamo a parlare a Bologna, ce ne vuole, eppure sono arrivato anche a Bologna parlando con Vulcano. Sì, no, già arrivato in Bacchia. Ah, poi se ti vuoi va in TV, basta a punire a Gigello. Già lo guido io. Allora me ne piglio un umano. Tu accendo, va bene. No, va bene, uno accetta, ma come spinge? No! Facciamo parlare le cavallette. Sono lì che poi è fastidio a una persona che già ha due volte. Vabbè, una persona le puoi dare fastidio lì in zona, già gli arrende due volte, immaginiamoci l'attacca di getto. Lo squaterno, mi dai fastidio perché siete vicine. Caparogeno. Ti riferisci a Pompone? Ho un'altra persona che stava parlando con te ieri, cioè stamattina. Caparogeno. Se arrivi forte così, immaginiamoci. Attacco 747 e devo te la rete. Oh, io. 960. ho trasmesso il 3 voci. Quello di Roma, 960. Chiama gara. Cosa costava quello a dopo? Questa è una sessantina di euro. Forse qualche cosettina in più. KK, sono cioè su di, mi sa che se lo ordiniamo. Sono alimentatore. Come? Si vuole alimentatore. Beh, quello sì. Almeno, almeno un 30 watt, vero? 25 watt vanno bene. Ah, 25 watt vanno bene. Cava, cava. Devi essere sicuro però che la radio ti dia... che ti dia sui 10 watt. Vabbè, ma questa radio ci arriva a 10 watt, sì, ci mancherebbe altro. Perché se vai oltre comincia a saturare, capito? E se sono nuovi pure meglio quando attacchi il ghiaccio. Sono nuovi cosa? Sono 4 watt, anche 5 watt è anche meglio quando attacchi quella che con il ghiaccio lì. Ah, capa capa. Invece la radio più bella, così. Cazzo, cazzo. Aumenta, l'aumenta. Aumenta la radio. Ma se tu esci fuori dai tuoi papà, allora te la sporca. Non ti piace tutto il sacco. Ah, vabbè, ma quello dipende sempre da, dall'alimentazione, così anche. Allora, amplificatore, c'ha una tolleranza. Che va da 10 watt. Il massimale, però se tu ti tieni in sala in 9 così e modulati 10 va bene. Se tu non gli dai più di 10 comincia a andare male, comincia a sentirsi saturo eccetera eccetera, quindi dovrai sentire nei 5 watt devi uscire dalla radio. Ma questa penso che esca a 5 watt e c'è del regolatore quello. Infatti quando vuoi tutto da vedere, vai. Da voi che andate in bighisso, allora ricordi giamba. Lo credo bene. Inizia a schicchiare. Ah, no. Tutto in lontananza, c'è una resa allucinante. È così. Ma non pare che si sentiva la barba. Compare che 5 minuti se ne prendo il pisellino, mi ha detto, cosa vedi? Ci vuole alimentazione, cara. Quando vai tutta quella cosa vicente, andrà a tacchi, io via. Ok, anche vai, che mi faccio 5 minuti di riposo. Se la ascoltiamo magari su 21, quando vanno chiamata al 5, poi passiamo a... già lo sai. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci